Ad alta voce, Elia Shilton legge Fame di Knut Hamsun, traduzione di Erminio Pocar. Il fiordo si cullava pigro e sonnolento, navi e barconi goffi dalla prua larga solcavano il suo piano plumbeo, lo laceravano in strisce e scivolavano via, mentre il fumo si alzava in dense matasse dalle ciminiere e l'ansito degli stantuffi vibrava nell'aria gelata. Non c'era sole, non c'era vento. Gli alberi alle mie spalle erano tutti umidi nella penombra e anche la mia panchina era fredda e bagnata. Il tempo passava. Io ripresi ad appisolarmi. Ero stanco e la schiena mi doleva dal freddo. Dopo un po' sentii che gli occhi mi si chiudevano e non li disturbai. Quando mi destai, si era fatto buio tutto intorno. Balzai in piedi stordito e scosso dai brividi. Presi il mio pacco e mi allontanai. Camminavo sempre più rapidamente per scaldarmi. Mi battevo le braccia, mi fregavo le gambe che quasi non sentivo più e arrivai così presso la caserma dei pompieri. Erano le 9. Avevo dormito parecchie ore. Che fare? In qualche posto dovevo pure andare. Mi fermai a guardare la caserma dei pompieri, pensando se non fosse il caso di infilarmi in uno dei corridoi quando la sentinella mi avesse voltato le spalle. Salii le scale e quando stavo per rivolgere la parola all'uomo di guardia, costui fece il saluto con l'ascia e aspettò che parlassi. Quell'ascia, alzata col taglio rivolto verso di me, mi colpì i nervi come una scossa fredda. Per lo spavento rimasi senza parola. Quell'uomo armato e mi ritrassi istintivamente. Non gli dissi nulla e mi tirai indietro piano piano. Per darmi un contegno mi passai una mano sulla fronte come se avessi dimenticato qualche cosa e me la svignai. Ritrovatomi sul marciapiede, provai quasi un senso di sollievo, come se avessi evitato un grave pericolo e scappai via. Gelato e affamato, tra pensieri sempre più tetri, mi incamminai per via Karl Johan. Mi misi a bestemmiare, forte, senza preoccuparmi affatto che qualcuno potesse udire. Davanti allo Sturting, proprio accanto al primo leone, pensai improvvisamente, per una nuova associazione di idee, a un conoscente pittore, un giovane che una volta al Tivoli avevo salvato da uno schiaffo. In seguito ero anche andato a trovarlo. Feci schioccare le dita e, recatomi in Turdenschuldgate, trovai la porta col biglietto di visita C. Zacharias Bertel e bussai. Egli venne ad aprire personalmente. Puzzava paurosamente di birra e tabacco. «Buonasera», dissi. «Buonasera, che... Ah, siete voi. Perché diavolo venite a quest'ora? Alla luce artificiale non fa nessun effetto. Dopo il nostro incontro vi ho dipinto un pagliaio e ho fatto altri ritocchi. Dovete vederlo di giorno, ora non è il momento». «Fatemelo vedere lo stesso», replicai. In realtà non sapevo assolutamente di che quadro stesse parlando. «No, non è possibile», rispose. «Sembrerebbe tutto giallo ora». «E poi un'altra cosa», soggiunse avvicinandosi e sussurrando. «Questa sera ho qui una ragazzina. Come vedete non è possibile». «Ah, beh, sì, certo, allora non se ne parla neanche». Mi ritirai, augurai la buonanotte e andai via. Dunque non mi rimaneva altro che il bosco. Se almeno il terreno non fosse stato così umido. Accarezzai la coperta e mi conciliai senz'altro con l'idea di andare a dormire all'aperto. Mi ero tanto torturato con la ricerca di un alloggio in città che ero stanco e stufo di ogni cosa. Il piacere di buttarsi a riposare, di andare per le strade rassegnato, senza un pensiero nella testa. Passai davanti all'orologio dell'università, vidi che erano le 10 passate e mi diressi verso il centro. Mi fermai davanti a un negozio di coloniali. Nella vetrina erano esposti dei commestibili. Un gatto dormiva accanto a un bel filone di pane bianco. Dietro questo c'erano un vaso distrutto e alcuni barattoli di semolino. Stetti un po' a osservare quelle meraviglie, ma siccome non avevo un centesimo, mi levai di lì con uno strappo e proseguii la passeggiata. Camminando molto lentamente andai avanti, sempre avanti per ore e ore, e giunsi infine nel bosco di Bokstad. Là mi allontanai dalla strada, mi sedetti un poco a riposare e andai poi in cerca di un posticino adatto. Raccolsi un po' di erica e di ginepro e su un pendio relativamente asciutto mi preparai la cuccia, poi svolsi il pacco e ne tolsi la coperta. Ero stanco, affannato per la lunga marcia e mi coricai subito. Mi girai e rigirai più volte finché potei trovare la posizione giusta. L'orecchio mi faceva un po' male. Era un po' gonfio in seguito alla frustata che avevo ricevuto dal conducente del carro di fieno. Non potevo star coricato da quel lato. Mi levai le scarpe, me le misi sotto la testa e le coprii col foglio di carta da pacchi. Le tenebre gravavano intorno a me e regnava un profondo silenzio. Ma alto nel cielo risuonava il respiro del vento. Un lontano, confuso mormorio che sembrava una musica senza fine. Stetti ad ascoltare la melodia dolorosa e infinita finché ne fui stordito. Era certamente la sinfonia dei mondi che turbinavano sopra di me. Erano le stelle che cantavano in coro. «Corpo del diavolo!» esclamai, ridendo forte per soffocare la mia angoscia. «Le civette stridono!» Mi alzai e mi sdraiai nuovamente. Mi rimisi le scarpe muovendomi a tentoni nella foresta buia, ma poi mi coricai ancora incollerito di quella mia paura contro cui lottai fino all'alba, addormentandomi poi profondamente. Quando apersi gli occhi era già chiaro. Ebbi l'impressione che fosse quasi mezzogiorno. Mi infilai le scarpe, riavvolsi la coperta nella carta e ripresi la via della città. Era un'altra giornata senza sole. Gelavo come un cane, avevo le gambe morte e le lacrime mi colavano dagli occhi come se essi non potessero tollerare la luce del giorno. Erano le 3. La fame cominciò ad annunciarsi dolorosamente. Ero spossato e mentre camminavo mi venivano ogni tanto conati di vomito. Feci una capatina alla cucina popolare, studiai i cibi del giorno registrati sulla lavagna e scrollai le spalle in modo ben visibile, come se il lardo e la carne affumicata non fossero roba per me. Di là scesi nel piazzale della stazione. A un tratto mi sentii nella testa uno strano stordimento. Deciso a non prestarvi attenzione, continuai a camminare, ma la situazione andava peggiorando, sicché dovetti mettermi a sedere sul gradino di un portone. Nel mio cervello si svolgeva un singolare mutamento, come se qualcosa vi si fosse spostato o un tessuto vi si fosse lacerato. Trassi qualche sospiro profondo e restai seduto, meravigliato ma cosciente. Sentivo perfettamente l'orecchio che mi doleva ancora dal giorno prima e quando passò un conoscente lo riconobbi subito e mi alzai per salutare. Che nuovo tormento era quello che veniva ad aggiungersi alle mie torture? Era una conseguenza dell'aver dormito sul suolo umido o derivava dal non aver fatto colazione? A pensarci, una vita simile non era una vera follia. Per le piaghe di Cristo Non riuscivo a capire quale delitto avessi commesso perché mi toccasse una persecuzione così straordinaria. Improvvisamente pensai che tanto valeva diventare un furfante in quello stesso momento, senza aspettare l'indomani e impegnare la coperta. Certo, potevo collocarla per una corona, potevo ricavarne 3 pasti relativamente sufficienti e tenermi a galla finché avessi trovato dell'altro. Per Hans Pauli, proprietario della coperta, avrei poi trovato qualche scusa. Mi avviai immediatamente per far visita allo zio dei Pegni. Davanti alla porta mi fermai, scossi il capo indeciso e me ne andai. Quanto più mi allontanavo, tanto più ero lieto di aver resistito a quella grave tentazione. La coscienza di essere una persona onesta mi montava la testa e mi dava una sensazione beata, la sensazione di essere un uomo di carattere, un faro bianco e luminoso in mezzo a una marea spregevole di relitti umani. Impegnare la roba altrui per un miserabile pasto, vendere l'anima per mangiare e bere, doversi dire in faccia furfante e mascalzone, dover abbassare gli occhi davanti a se stesso, no, mai, mai! Probabilmente non ci avevo neanche pensato sul serio. Non mi era nemmeno venuto in mente. Non ero certo responsabile di quei pensieri incerti e fluttuanti, tanto più che la testa mi doleva da farmi impazzire e mi trascinavo quasi morto con quella coperta che apparteneva a un altro. Nonostante tutto, avrei certo trovato una via d'uscita, un po' di pazienza. C'era, per esempio, il mercante Cristi. L'avevo forse seccato ogni ora dopo aver concorso al posto disponibile? Avevo tirato il suo campanello dalla mattina alla sera? Ero forse stato respinto? No, non mi ero neanche presentato, non avevo avuto alcuna risposta, non ero affatto sicuro che il tentativo fosse nuovamente fallito. Questa volta potevo aver fortuna. La sorte fa spesso giri complicati e svolte curiose, perciò andai dal signor Cristi. L'ultima scossa e la commozione mi avevano tolto le forze. Camminavo quindi lentamente, molto lentamente, pensando a quel che avrei detto al mercante. Chissà, forse era un'anima buona. Se lo trovavo di buon umore, certo, non avrebbe avuto difficoltà ad anticiparmi una corona senza farsi troppo pregare. Quella gente ha talvolta idee veramente luminose. Entrai sotto un portone e inumidii il ginocchio dei calzoni con la saliva per darmi un'aria più decente. Nascosi la coperta dietro una cassa in un angolo buio, attraversai la strada ed entrai in una piccola bottega. Un uomo stava incollando pacchi fatti con vecchi giornali. «Il signor Cristi?» domandai. «Sono io», rispose. «Dissi che mi chiamavo così e così, che mi ero preso la libertà di mandargli 2 righe per concorrere al posto offerto e non sapevo ancora se ero stato accettato». Egli ripeté il mio nome un paio di volte e si mise a ridere. «Guardate un po' qui», disse estraendo la mia lettera dal portafogli. «Abbiate la compiacenza, signor mio, di guardare come trattate i numeri. Nella data voi avete messo l'anno 1848. E rideva a crepapelle. Io rimasi mortificato. Dissi che la cosa era piuttosto grave. Era stato un momento di distrazione, ammisi la mia spensieratezza. «Ecco, vedete», disse, «io ho bisogno di un uomo che sia preciso in fatto di numeri. Mi dispiace molto, la scrittura è chiara, è bella, anche la lettera come tale mi piace, ma aspettavo». Quella non poteva essere certo l'ultima parola ed egli continuò a incollare i pacchi. Certo, era spiacevole, dissi, maledettamente spiacevole, ma naturalmente la cosa non si sarebbe più ripetuta. E certo, quella piccola svista non annullava tutte le mie capacità di contabile. «Non dico questo», replicò lui, «ma per me il fatto fu così importante che mi decisi subito per un altro». «Sicché il posto è occupato». «Già, Dio mio, mi sa allora che non c'è niente da fare, proprio niente, mi rincresce. Però, addio! Esclamai, e mi prese una rabbia selvaggia e brutale. Andai a ritirare il pacco dall'angolo, strinsi i denti, investii sul marciapiedi i pacifici passanti senza domandare scusa. Un tale mi fermò per rinfacciarmi piuttosto aspramente il mio contegno, ma io mi volsi e gli gridai in faccia non so che parola insensata. Gli andai coi pugni sul viso e proseguii, accecato e sopraffatto da una collera che non potevo più contenere. Quello chiamò una guardia e io non cercavo di meglio che avere per un istante una guardia fra le mani, sicché rallentai il passo apposta, volevo dargli la possibilità di raggiungermi, ma quello non venne. Si poteva pensare ancora a un mondo ragionevole se tutti i tentativi, per quanto onesti e assidui, erano buchi nell'acqua. Perché avevo scritto 1848? Che mi importava di quell'anno dannato? Ecco che andavo in giro tormentato dalla fame e che le budella mi si torcevano come vermi. E nulla mi garantiva che entro la fine della giornata avrei trovato qualcosa da mangiare. Quanto più il tempo passava, tanto più mi sentivo svuotato fisicamente e moralmente. Di giorno in giorno commettevo azioni sempre più disonoranti. Dicevo bugie senza vergognarmi, truffavo la pigione alla povera gente, giocavo persino col pensiero schifoso di approfittare delle coperte altrui, senza alcun pentimento, senza rimorsi di coscienza. Incominciavo ad avere macchie nere dentro di me e muffe che si allargavano sempre più. E lassù nel cielo c'era Dio che mi guardava attentamente, badando che la mia rovina avvenisse a regola d'arte, lenta ma sicura, a passo regolare. Laggiù, in fondo, invece, nell'abisso infernale, i diavoli malvagi sbuffavano dalla rabbia perché ci voleva tanto tempo prima di farmi cadere in peccato mortale, in un peccato imperdonabile per cui Dio, nella sua giustizia, dovesse spedirmi all'inferno. Il mio passo si fece più rapido. A poco mi misi persino a correre. Deviai verso sinistra e mi trovai senza volere, furibondo e grondante di sudore, in un vestibolo chiaro e decorato di pitture. Ma non mi fermai neanche un secondo. L'insolito aspetto di quell'ingresso mi entrò subito nella coscienza e mentre salivo le scale vidi chiaramente ogni particolare delle porte, delle decorazioni, delle mattonelle del pavimento. Al secondo piano tirai forte il campanello. Perché mi ero fermato proprio là, al secondo piano? E perché mi ero attaccato proprio a quel campanello che pure era il più lontano dalla scala? Venne ad aprire una signorina vestita di grigio con guarnizioni nere. Mi guardò un momento stupefatta, scosse il capo e disse «No, oggi non abbiamo niente» e fece per chiudere la porta. Anche quella doveva capitarmi. Mi prendevano senz'altro per un accattone. Mi sentii gelare, ma mi calmai subito. Mi tolsi il cappello, feci un profondo inchino e, come se non avessi udito quelle parole, dissi con perfetta cortesia: «Vi prego di scusarmi, signorina, se ho suonato così forte. Non avevo pratica del campanello. Qui ci dovrebbe essere un signore ammalato che, secondo un avviso sul giornale, cerca una persona che gli spinga la carrozzella». Per un po' ella parve considerare la mia menzogna e non sapere che cosa pensare di me. «No, no», rispose infine, «non c'è nessun malato qui». «Ah no? Dovrebbe essere un signore anziano. 2 ore al giorno di passeggiate, 40 centesimi l'ora». «No, no». «Allora, signorina, devo chiedervi scusa ancora una volta. Forse è di sotto, al primo piano. Si trattava di raccomandare un mio conoscente che mi sta a cuore. Io mi chiamo Wedel Jarlsberg». E fatto un altro inchino, mi ritirai. La signorina si fece rossa come un gambero. Per l'imbarazzo era incapace di muoversi e mi seguì con lo sguardo mentre scendevo le scale. Avevo ritrovato la calma. La mia testa era limpida. Le parole di quella signorina, quando aveva detto che non aveva nulla da darmi, mi avevano fatto l'effetto di uno spruzzo d'acqua gelata. A tal punto ero arrivato. Ognuno vedendomi poteva pensare: ecco un accattone, uno di coloro ai quali si dà un pezzo di pane dallo spiraglio della porta. Nella Möllergate mi fermai davanti a una trattoria e aspirai il delizioso profumo d'arrosto che ne usciva. Avevo già messo la mano sulla maniglia e stavo per entrare, ma mi arrestai in tempo e andai oltre. Quando arrivai nella piazza del mercato e cercai un posticino per riposare, c'erano tutte le panchine occupate. Girai intorno alla chiesa per trovare un angolino dove sedermi. Si capisce, dicevo, seccato tra me e me. Si sa, si capisce, e andai avanti. Feci una capatina fino alla fontana, presso la caserma dei pompieri, mandai giù un sorso d'acqua, mi trascinai avanti, fermandomi a lungo davanti alle vetrine e seguendo con gli occhi tutte le carrozze che passavano. Avevo il cervello in fiamme e uno strano battito nelle tempie. L'acqua che avevo bevuto mi fece molto male, sicché più volte fui costretto a rigettare. In tali condizioni arrivai al cimitero, mi sedetti coi gomiti sulle ginocchia e la testa fra le mani. Così rannicchiato stetti meglio, poiché non sentivo più quel tormento segreto nello stomaco. Elia Shilton ha letto Fame di Knut Hamsun, traduzione di Erminio Pocar. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.